altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo qua anche oggi per raccontarvi l'Europa da un punto di vista divergente. Cerchiamo storie, cerchiamo persone per capire meglio il nostro continente. Programma fatto in collaborazione con il network Euronet, euronet.eu è il sito se volete vedere cosa succede a questa sorta di consorzio di radio. Siamo in diretta, potete farvi vivi via sms al 349-238-6666 oppure via email. L'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. La Repubblica di oggi, un titolo dice: abbiamo mangiato l'ultimo pesce d'Europa. Il consumo ha superato la capacità di riproduzione dei mari, si rischia il collasso e noi quindi diamo la parola a lui, il polpo Paul. Un momento por miles de aficionados al mundo futbolístico ya llegó. El pulpo Paul, conocido por sus predicciones en los resultados, ya eligió al nuevo campeón del Mundial de Sudáfrica 2010. Esta vez Paul está seguro de que la Furia Roja será la vencedora en la final del 11 de julio, en la que España se enfrentará a los Países Bajos. Recordemos que este oráculo ha pronosticado todos los resultados sin equivocarse durante el Mundial. Además, predijo que el tercer puesto en este campeonato será para el equipo alemán. Usted está de acuerdo. Non c'è bisogno di traduzione, il polpo Paul, insomma, ci ha accompagnato durante questo mondiale, che anche noi abbiamo seguito, un mondiale assolutamente europeo. Ci sarà la finale domani tra Olanda e Spagna. Beh, il polpo Paul è riuscito a mettere in depressione un'intera nazione. Lui ha previsto che vincerà la Spagna e gli olandesi l'hanno presa malissimo. Per capire quello che sta succedendo in Olanda in queste ore abbiamo convocato Carlo Cavallone, che è direttore creativo dell'agenzia pubblicitaria che lavora per la Nike, vive là da 9 anni, segue il calcio e soprattutto vive a contatto quotidiano con gli olandesi. Ciao Carlo, buon sabato. Ciao Federico, come stai? Io molto bene. Tu come lo vivi questo mondiale? Ti senti un po' in finale anche tu? Ma in realtà no, anche perché gli olandesi non sono stati molto teneri con l'Italia quando è uscita. E ovviamente c'è una grossa rivalità. L'Italia non è... per la loro filosofia del calcio è sempre abbastanza ben vista. Però devo dire, non so, mia figlia è nata qui e va in giro con la maglietta arancione da 2 settimane, quindi devo insomma... in qualche modo partecipare e fingere di essere contento. E devo dire che se l'Olanda dovesse vincere sarebbe bello. Certo, ma e tu hai indossato qualcosa di arancione in questi giorni o hai evitato? No, solo delle calze un giorno e normalmente venivo fermato da colleghi o per la strada da gente che era un po' anche... adirata. Arrabbiata del fatto che non avessi addosso niente arancione. Qua prendono la fede calcistica come una religione e sono anche abbastanza integralisti in questa religione, quindi tutti devono mettersi almeno un nastrino arancione o qualcosa, ma insomma io domani provvederò, ecco. e domani sera sono pronti a cucinare polpo e patate per tutte. Come l'hanno presa questa previsione del polpo Paul? Malissimo. Ah, sì? Io vivo, lavoro in un ufficio piuttosto grande e ho sentito anche da altre parti. Ieri mattina c'è stata la diretta e lo stream video della decisione del polpo Paul. Era fantastico vedere milioni di persone che guardavano un polpo in diretta, è stato un momento magico. E quando il polpo ha detto Spagna è caduto il silenzio proprio, da quel momento devo dire che il grado di eccitazione di fiducia, è sceso molto, insomma, ecco. Ovviamente insomma è un popolo molto legato alla propria nazionale, però sì, parlavi di fede, cioè, c'è una fiducia cieca nei confronti degli 11 giocatori, ma è anche un popolo scaramantico, cioè questa cosa del polpo, ci credono per davvero? Direi di sì, no, nel senso che comunque non sono scaramantici, non lo sono normalmente, sono molto appunto integralisti nella loro fede. Noi in Italia siamo abituati a mettere le mani avanti, dire ah no, ma questa volta usciremo. Gli olandesi vanno dritti per la loro strada, però non sopportano molto la critica o il non allineamento con la squadra, quindi il polpo è visto molto molto male, insomma, non credo che ne facciano un discorso scaramantico, sono più che altro offesi col polpo. Proprio, quindi stanno personalizzando questo rapporto col polpo, sì. Ho capito, e so che c'è una grossa paura, che è quella di andare sotto di un gol, ma proprio come significato legato alla cultura dell'Olanda. Sì, perché c'è questo fatto che è riconosciuto nella cultura, c'è una parola olandese impronunciabile che non pronuncerò anche perché la mia pronuncia non è molto buona, ma comunque che significa la sensazione di aver subito un torto, che è una cosa che gli olandesi riconoscono di avere nella loro cultura, cioè che se vanno sotto, vengono offesi, c'è qualcosa che non funziona, si apre una falla, diciamo, nella diga. Mm-hmm. Per usare una metafora che qui forse è meglio non usare, comunque okay, è l'inizio di una sventura cosmica, e si è visto in precedenti campionati del mondo, tipo la partita col Portogallo, gli ultimi mondiali, quando le cose non sono andate bene, eccetera, eccetera, e ci sono state tipo tre o quattro espulsioni, proprio perché gli olandesi vedono l'andare sotto o le cose che non funzionano come vorrebbero come un segno del destino, e non la prendono benissimo. Infatti quando hanno giocato col Brasile e sono andati sotto, tutte le persone, io vedevo con un larghissimo gruppo di persone questa partita, e tutti dicono è finita, ed è il Brasile ha segnato tipo dopo 10 minuti. Insomma, è bello conoscere, perché è veramente si conosce la cultura e il carattere di un popolo anche attraverso il calcio. Però so che ad Amsterdam sarà festa comunque domani sera. Sì, la città di Amsterdam, il sindaco ha annunciato che ci sarà una festa comunque martedì. È stato mandato in giro un'email, ci sono dei manifesti che ci sarà la parata della vittoria o la parata della sconfitta, e organizzata sarà una cosa molto bella, tra l'altro che ripete un po' l'evento che è successo nell'88 quando hanno vinto gli europei, che i giocatori saranno su una barca per i canali di Amsterdam, e ci sarà un percorso attraverso tutta la città. In ogni caso, adesso io, vedendo un po' come vanno le cose qui, non sono sicuro che se perdono sarà allegrissimo, però insomma è un modo forse per sdrammatizzare, ecco. Sarà caccia al polpo comunque in caso di sconfitta, sì, questo sì, è sicuro, assolutamente. Grazie davvero Carlo per la tua corrispondenza dall'Olanda, e goditi comunque la festa sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Ciao, sarà enorme, ciao grazie, buon sabato, ciao. Caro Cavallone da Amsterdam, anche questo. Questo è l'Altra Europa, ora le informazioni sul traffico. Europostet. Tedeschi, perdenti sul campo ma campioni su YouTube. È cliccatissimo infatti il video di una nuova versione non ufficiale dell'inno tedesco, con un assurdo ritornello che invece di Deutschland dice Schland. Il titolo della canzone è un mix che richiama la Vuvuzela, l'ex calciatore tedesco Uwe Seeler, e Lena, la cantante tedesca vincitrice dell'Eurofestival. La canzone infatti si chiama Uwe Lena. L'altra Europa. Giornata calda per chi sta viaggiando, ma Radio 24 vi terrà informata come sempre. Siamo qua con l'Altra Europa, andiamo a scoprire, andiamo a conoscere il nostro continente. Lo facciamo anche attraverso nuove leggi, attraverso nuove tendenze che magari vengono avviate in certe nazioni, per vedere quelle che sono poi anche le ricadute, le possibili ricadute da noi, se sono modelli che possono essere copiati, possono essere imitati. Oggi andiamo in Inghilterra, perché in questi giorni è stato presentato un nuovo piano abbastanza rivoluzionario legato alla scuola. L'obiettivo è quello di debellare un grave problema, che è quello del bullismo, anche se le decisioni prese insomma un po' spaventano, almeno così sulla carta. Londra, i maestri possono picchiare, questo era il titolo lanciato dalla stampa qualche giorno fa, per capire quella che è la probabile riforma in atto in Inghilterra. Abbiamo convocato la corrispondente da Londra per Radio 24, Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori anche. Grazie, come sai noi ci facciamo spesso anche gli affari vostri. Stai facendo un trasloco, vero? Sì, sto facendo un trasloco, sono nel mezzo seduta, anzi su uno scatolone contenente 5 anni di inserti del Sunday Times, se questo può interessare. Fantastico, ma che metti in vendita su eBay o vengono con te? Vengono con me, sai, sono cose, certe cose non ci si può distaccare. Beh, brava. Hai notato differenze tra il trasloco italiano e il trasloco inglese? No, in realtà no, se non altro che qui ti mettono a disposizione un furgone e hai 24 ore di tempo per portare via tutto ciò che hai in casa, nel mio caso in un deposito. Ho capito, buon lavoro, insomma sappiamo. Grazie. Che e noi ti abbiamo disturbato nel bel mezzo del trasloco. Sì, però per parlare di una cosa direi molto importante, perché insomma la scuola è uno dei punti salienti delle varie riforme dei vari paesi e diciamo che qui è molto più diciamo sentita, perché la Gran Bretagna è una nazione che ha paura dei propri teenager. Vi do soltanto un dato: dall'inizio dell'anno 14 giovanissimi sono stati uccisi per mano e coltello dei propri coetanei, quindi c'è un certo timore per questa tendenza che ormai si sta consolidando dagli ultimi anni. E a scuola abbiamo 20.000 espulsi e 90.000 sospesi, quindi hanno deciso di, insomma, vediamo che cosa sta succedendo, cerchiamo di mettere un freno a questi comportamenti indisciplinati degli studenti. Quindi una scuola violenta, che comunque sarà anche specchio di una società giovanile molto violenta, ma è anche una scuola che fino ad oggi ha lasciato passare, quindi una scuola comunque debole? La scuola non è debole, perché allora ricordiamo che le punizioni corporali tipo quelle attimo fuggente, non so se avete presente, sono state abolite soltanto negli anni 70, quindi un pugno di ferro c'è stato fino ad allora e di fatto gli insegnanti anche oggi sono autorizzati ad usare la forza, ovviamente con la clausola che non possono ferire gli studenti. La rivoluzione che sta avvenendo in questo momento è che gli insegnanti hanno un po' paura ad utilizzare la forza, mentre ora per diritto potranno dare uno schiaffo o qualcosa, usare la forza contro gli studenti anche per portarli fuori qualora avessero dei comportamenti indisciplinati in classe. Non solo, ma possono perquisirli e cercare non soltanto i coltelli come era in vigore fino ad oggi, ma anche iPod, cellulari, petardi e materiale pornografico. Quindi possono veramente mettere le mani sugli studenti e tirare fuori tutto quello che può essere appunto arrecare disordine in classe. Immagino che però, ecco, il limite, insomma, i professori hanno diritto di fare ricorso alla forza fisica con l'avvertenza di non ferire i ragazzi, è da capire lì chi deciderà se il ragazzo è stato ferito o meno, nel senso che personalmente mi lascia un po' perplessa come scelta lì, come è stata presa dall'opinione pubblica. Allora a sorpresa non c'è stata la rivoluzione che magari potrebbe esserci in Italia, probabilmente perché è un problema sentito, probabilmente perché loro sono abituati appunto all'uso della forza nelle classi, ma non hanno reclamato, anzi la misura è stata ovviamente ben accolta dall'Unione degli insegnanti, ma anche i genitori non hanno protestato più di tanto. Io addirittura un mese fa per un reportage di Radio 24 mi sono spinta fino al Far East di Londra, l'area di Hackney, dove stanno le gang, la microcriminalità, e sono entrata in una scuola che di fatto già sta applicando misure molto restrittive, come ad esempio tenere gli studenti in classe: se uno ha l'uniforme qualcosa di sbagliato resterà in classe fino alle 8 di sera oppure tornerà il sabato, e il preside mi diceva che proprio i genitori all'inizio avevano delle remore contro queste misure restrittive, adesso però nessuno più, parliamo di genitori che sono magari ladri o spacciatori e che hanno i figli a scuola, nessuno più apre bocca, stanno zitti, anche perché questo ha dimostrato che il rendimento degli alunni sta aumentando e anche il bullismo sta diminuendo, quindi la misura si sta rivelando efficace. Questa scuola, da peggior scuola del Regno Unito, è diventata la perla nel giro di 5 anni, e quindi sta un po' la disciplina e il pugno di ferro sta un po' segnando l'esempio per le altre scuole. Nick Gibb è il nome del primo del ministro, scusa, dell'istruzione. Che tipo è? Hai avuto modo di studiarlo? Lui viene da una disciplina Tudor, quindi è abituato probabilmente alle bacchettate, perché ha 50 anni e quindi era ancora nella fase delle bacchettate sulle mani, per non dire altre parti del corpo, e quindi ovviamente si sta un po' prendendo la rivincita sui nuovi studenti, al pugno di ferro, non sorride molto al bullismo, ovviamente sta cercando dare una stretta dove è sentita. Ma non soltanto lui, anche il Ed Ball, che era il candidato dei laburisti a diventare ministro dell'istruzione, che poi ovviamente ha perso, fra i punti della sua campagna elettorale aveva messo questo, le stesse pugno di ferro che poi è stato presentato ora e che diventerà legge fra circa un anno. Certo, insomma il bullismo e la violenza è comunque una piaga nella scuola inglese, anche nella scuola italiana. Bisogna dire se appunto sì, questa violenza ha senso combatterla con un'altra violenza, però insomma lo scopriremo, anche perché ci saranno ricerche e vedremo nei prossimi mesi quello che accadrà nella scuola inglese. E Giorgia, sfruttiamo il fatto che tu sei a Londra, il fatto che è stata, tanti italiani verranno in città, c'è una chicca da presentarci, una novità, un'attrazione turistica che vuoi segnalarci? Assolutamente sì, e la novità che dà più nell'occhio in assoluto al momento è il nuovo padiglione della Serpentine Gallery a Kensington Gardens. Dà nell'occhio perché è completamente rosso, un rosso acceso che ricorda una gigante cabina del telefono, ed è stata progettata da un famosissimo architetto francese, Jean Nouveau, e per l'appunto viene aperta oggi. Quindi se c'è qualcuno che sta prendendo un aereo in direzione Londra, si può affrettare, correre verso la Kensington Garden per vederla, ed è fatta di pannelli geometrici che hanno delle tettoie che si retraggono. All'interno è tutto rosso acceso, un po' come anche all'esterno, immaginatevi nel mezzo del verde questa rossissima costruzione, e dentro ci si può giocare a scacchi, si possono fare un sacco di giochi e ci sono dei frisbee disponibili per chi poi volesse giocare all'aperto. Fantastico, se poi vi rimangono due ore libere, Giorgia lì con gli scatoloni, una mano per il trasloco non si rifiuta mai, vero? Per favore, venite in massa. Giorgia, grazie davvero, come sempre, buon weekend, fa ridere visto che è un trasloco, ma insomma il vostro sarà sicuramente migliore, ve lo auguro. Ciao, grazie, buon lavoro. Giorgia Scaturro da Londra, corrispondente per Radio 24 all'Altra Europa. Europost-it. Girare l'Europa camminando non è un ricordo storico, ma una diversa possibilità di viaggiare che sta contagiando sempre più persone. Percorrere la Via Francigena o fare il Cammino di Santiago, attraversando paesi diversi alla scoperta di luoghi, incontri, ma anche un po' di se stessi. Tutti i percorsi e le informazioni sui cammini più popolari e i consigli per chi vuole tentare il suo primo cammino su cammini-d'europa.eu. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa. I vostri interventi in diretta via email altraeuropa@radio24.it. Se volete anche darci dritte o consigliarci spunti da trattare nelle prossime puntate, oppure via SMS al 349-238-6666. È un programma fatto di contaminazioni, ci piace raccontare italiani all'estero o stranieri che vivono in Italia, e queste contaminazioni poi producono anche strani fenomeni, strani effetti. Per esempio, abbiamo notato che ci sono tantissimi blog di italiani all'estero che raccontano la loro quotidianità e ci piace quindi raccontarli, e oggi andiamo a scoprire un blog molto interessante. Abbiamo parlato dell'Olanda, non potevamo evitare ovviamente la Spagna per par condicio calcistica. Il blog è www.italianingalizia.it. Nasce dall'idea di Erminio Capone, che ha vissuto, vive in Galizia, e la sua idea è stata proprio quella di raccontare un po' la Galizia vista dagli occhi di un italiano, ma non solo, perché la cosa geniale qual è stata? È stata quella di trovare un galiziano che ha vissuto in Italia, in Sicilia, e poi è tornato lì, quindi un galiziano che scrive in italiani in Galizia. Noi l'abbiamo convocato per capire da lui e conoscere meglio questo progetto. Diamo il benvenuto a Diego Vasquez Dominguez. Ciao Diego! Pronto? Diego? Pronto Diego? Diego, mi senti? Questo è anche il bello della diretta, proviamo a richiamarlo al volo. Intanto vi ridò il sito, che è www.italianingalizia.it. Questo gruppo di amici, di colleghi, tra l'altro ci hanno dedicato tantissimo spazio oggi nella loro home page, proprio per raccontare di questa intervista le varie voci della Galizia. Erminio Capone, appunto, è il fondatore, Luca Leonardi, che è l'informatico che segue il sito, e c'è anche una ragazza che ha vissuto là, adesso è tornata in Italia, si chiama Diana Medri, ma stiamo cercando di parlare con Diego, che è un galiziano, fa l'ingegnere edile e scrive sul sito, tra l'altro c'è un articolo bellissimo sulla professione dell'arrotino, con tante assonanze con gli arrotini che c'erano e ci sono ancora qui in Italia. Ciao Diego! Ciao, buongiorno. Eccolo lì, ti eri addormentato in diretta, ammettilo. No. Ciao. Io ti stavo sentendo, scusa. Noi no, ma non è un problema, è la diretta. Allora Diego, tu scrivi su questo portale che si chiama Italiani in Galizia, ma scrivi da italiano o scrivi da spagnolo? Io sono galiziano, sono nato in Galizia, sono spagnolo, sì, sì. Uh-huh. E hai vissuto a Palermo, vero? Ho vissuto un anno a Palermo, sì. Uh-huh. È bastato questo anno a Palermo per conoscere l'Italia e gli italiani? Non era la prima volta che ero stato in Italia, però comunque quest'anno a Palermo io ho cercato di vivere come uno di loro, ho fatto amici siciliani, uh-huh, e ho cercato un po' di fare la vita di italiano. E com'è scrivere su un sito che parla di italiani in Galizia? Ci vuoi raccontare intanto il sito, perché è nato e qual è l'idea di fondo? Il sito è nato un po' dell'idea, come avete detto, di Erminio Cappone, di fare, non lo so, una specie di meeting point per gli italiani che sono in Galizia per tante cose, per questioni di lavoro, di corsi di studio, l'amore che ha portato qualcuno in Galizia, e io mi sono messo per essere un po' collegato, per non perdere quello che aveva preso in Italia, per poter parlare un po', e lui mi ha fatto la proposta di partecipare su questo blog, poi è nato poco tempo fa come italiani Italia in Galizia, certo. Abbiamo fatto già qualche cosa, una rassegna cinematografica, qualche raduni per vederci. Sì, sì, insomma, un bel incontro di culture, ma i galiziani e gli italiani sono simili per certi aspetti? Dipende un po' degli italiani. Io per esempio in Sicilia ho trovato tante cose simili fra loro siculi e noi galiziani, perché anche noi non siamo una isola nel confronto del resto di Spagna, di Madrid, della città principale della Spagna, siamo un po' isolati e abbiamo tante cose in comune, pure il nostro idioma, il galiziano, ha parole molto simili a quelle che usano i siciliani, è una cosa bella. Uh-huh. E nel portale ci sono insomma anche qualche articolo sull'orgoglio galiziano, per esempio il calcio balilla è un'invenzione galiziana, non lo sapevamo e ne andate fieri di questa notizia, immagino. Questa è la storia che dicono, che è nato per l'invenzione di un uomo alla guerra civile, per fare giocare pure ai malati che erano ricoverati in ospedale, che non potevano fare esercizi per strada, e ha inventato questo gioco. Si gioca ovunque in Galizia, questo cupolini li chiamiamo noi. Insomma, ha fatto il giro del mondo. E Diego, fare cultura vuol dire raccontare la quotidianità. E il tuo ultimo articolo, per esempio, parla della professione, del mestiere di arrotino. Come mai che hai scelto proprio l'arrotino? E come parlare dell'arrotino può aiutare a fare incontro tra popoli diversi? Questa è una storia che mi è piaciuta troppo, perché la città dove io sono nato, Ourense, che è nell'interno della Galizia, siamo conosciuti così, come gli arrotini. Noi qua si chiama affiador. La gente che in altri tempi, perché ora non si fa quasi più, andavano per tutta la penisola a fare questo mestiere. E qualche anno fa ho trovato un'esposizione sugli arrotini, un monastero che abbiamo lì a Ourense, e la cosa bella è che parlavano pure degli arrotini italiani, e io ho trovato questo punto di connessione, no? Per fare questo articolo, perché ho visto che Io pensavo che forse era una cosa da noi qua, perché sempre parlavano di Gerardini della nostra zona di Orense, invece c'erano pure in oltre paese che sono andato pure con i nostri in Sud America, in America, sono arrivati i nostri curi alle Filippine. Ok, insomma, un bel viaggio, si viaggia nella storia, nel tempo e nello spazio. E Diego, allora, ricordiamo il sito che è Italiani in Galizia, e andatelo a visitare perché è veramente un bello spaccato. E domani sera e durante la finale Olanda-Spagnolo ti sentirai galiziano o ti sentirai spagnolo? Tutte le due cose, io mi sento le due cose, non è che sentirsi una cosa lascia l'altra a parte, no. Io sono orgoglioso di essere galiziano, però siamo dentro la Spagna, non ho problemi su questa cosa io. Vuoi fare un pronostico per la partita di domani sera? Speriamo una vittoria, non lo so quando, però una vittoria, perché il paese è una testa nerviosa per aspettando la partita, perché l'opportunità è grande. Grazie davvero Diego, salutami tutto il gruppo, tutto il team degli italiani in Galizia e divertitevi, continuate così. www.italianingalizia.it, anche questa è l'altra Europa. Europosted. Descrivere l'Irlanda partecipando a un concorso letterario. È il progetto Irlanda del Cuore. E proprio oggi a Roma è in corso la presentazione del libro che raccoglie le opere dei vincitori dell'edizione 2010. L'incontro, aperto a tutti, si tiene nella Sala Gonzaga all'interno del comando della Polizia Municipale in Via della Consolazione e si concluderà con un brindisi, naturalmente in un pub irlandese. Il progetto Irlanda nel Cuore è sostenuto dalle agenzie turistiche Easy Cork e Easy Dublin ed è realizzato in collaborazione con Ryanair. È già pronto il nuovo bando per partecipare alla prossima edizione del concorso letterario. irlandanelcuore.com. L'altra Europa. Questi sono i nostri Europost-it, sono segnalazioni, sono idee, sono spunti, sono concorsi, insomma prendete nota perché vogliamo fare informazione sull'Europa, altra informazione, altre notizie per raccontare magari quello che gli altri non raccontano o approfondire aspetti diversi e nuovi, come per esempio in Finlandia dal 1° di luglio la rete è diventata un diritto fondamentale, la Finlandia è infatti il primo paese al mondo a riconoscere legalmente un ruolo fondamentale alla banda larga, e ogni cittadino avrà così diritto a una propria connessione, a una propria casella di posta elettronica, a un proprio spazio internet. Una rivoluzione, insomma, internet che diventa un diritto civile. Per capire bene come l'ha presa la popolazione, se c'era l'esigenza, se è stato un passaggio culturale importante e sentito, abbiamo convocato una finlandese, e lei fa la traduttrice e interprete finlandese e italiano. Diamo il benvenuto a, attenzione perché qui il cognome corrisponde con il codice fiscale nostro, quindi è difficilissimo, Lena Tavizanen Petraja. Lena, ci ho preso bravo, più bravo. O meno, bravo, grazie, ma avevano scritto anche già la traduzione, quindi ricordati però che l'accento cade sempre sulla prima sillaba in finlandese, quindi Tavizanen Petraja, un nome troppo lungo. Lena, tu fai la traduttrice, di cosa ti occupi? Sì, traduco per lo più romanzi italiani, cioè dall'italiano in finnico, anche altri libri, e poi faccio l'interprete. Ho conosciuto personaggi, diciamo, di un certo livello italiani, cominciando dai presidenti della Repubblica agli scrittori più grandi, e quindi mi sento molto grata, diciamo, per tutte queste occasioni che ho avuto di conoscere personaggi davvero interessanti e umani italiani. Ma hai fatto anche l'interprete per il Premier? No, ancora non l'ho conosciuto. No, okay. Sì. E come romanzi, adesso ci facciamo un po' di affari tuoi, ma è tipico del nostro programma. E come romanzi cosa hai tradotto di recente per capire? Ah, io adesso sto traducendo l'ultimo di Ammaniti. Ho tradotto già due altri romanzi di Ammaniti. E poi dovrebbe uscire quest'anno un romanzo interessantissimo scritto non da un italiano, ma scritto in italiano, sicuramente conoscete il nome, questo sibiriano tatuatore che si è trasferito nel Piemonte, e l'educazione siberiana. Ah, okay. E poi ho tradotto anche un romanzo di Eco, Danubio di Magris, I ricordi dell'infanzia di Dario Fo, che ho conosciuto anche di persona quando è venuto qui in Finlandia per fare il regista per un'opera di Rossini. Beh, insomma, credo che un'esperienza indimenticabile, certo, devo dire. Credo che tradurre in Finnico Umberto Eco, insomma, sia un'esperienza, quindi un'esperienza molto creativa. Mi sono divertita anche perché ho dovuto inventare tutto un linguaggio nuovo, perché all'inizio di Baudolino lui usa questo linguaggio metà latino, un contadino ignorante scrive, insomma, usa questo misto di linguaggi, poi sempre nel Medioevo, no? E allora io, per trovare qualcosa che corrispondesse, sono andata in biblioteca e ho cercato, insomma, i primi testi letterari scritti in finnico, e mi sono divertita anche perché c'erano giochi di parole, insomma, un registro molto vario e vasto. Tra l'altro, io ovviamente non conosco il finnico, ma c'è una parola finnica che assomiglia a una parola italiana? No, sono veramente due mondi completamente diversi. Sono tante, perché... Ah, sì. Sì, perché in finnico e in italiano le parole terminano quasi sempre in vocale, no? E quindi il suono è piuttosto è uguale, e quindi troviamo tantissimi termini che in italiano significano qualcosa e poi in finnico un'altra cosa, e tra le parole più citate adesso sono diciamo, magari scandalizzo qualcuno, no, se dicendo tranquilla, che per esempio le parole culo, sì, e cazzo sono parole finlandesi, cioè culo vuol dire l'udito e poi cazzo vuol dire guarda, proprio la forma imperativa di questo verbo cazzo, e quindi traducendo, insomma, facendo l'interprete qualche volta cerco di evitare, traducendo in finnico, evitare l'uso di cazzo e cerco di usare termini diciamo le forme dialettali di questo verbo maledetto. Sì, sì, noi solitamente tentiamo di altri esempi di questo tipo. Sì, di evitarlo in radio, ma appunto stavamo parlando in finnico, quindi va benissimo. E abbiamo parlato di tutto, forché e del motivo per il quale ti abbiamo chiamata. Stai lì, diamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo per parlare di internet come diritto fondamentale in Finlandia. L'altra Europa. Eccoci qui all'Altra Europa con noi Elena, traduttrice ed interprete finlandese. E, insomma, di fatto viene voglia di scrivere un libro per farselo tradurre da Elena. Allora, sì, Elena, insomma. Elena con due E. Elena, è questa la giusta... Sì, sì, no, dizione. No, stai pronunciando molto bene il mio nome. Sì, dimmi allora. Ti ringrazio. Allora, dai, parliamo di questa scelta. Il governo finlandese ha deciso di mettere internet come diritto fondamentale, un diritto civile. Come è stata presa questa scelta dalla popolazione? Era un'esigenza? Per quello che ho sentito io è stata presa molto bene, cioè nessuno si è lamentato, però devo aggiungere che in questi giorni gli argomenti più scottanti sono stati altri. Purtroppo una sparatoria successa 3 o 4 giorni fa in una città vicino a Helsinki, in cui sono morti 3 innocenti. Poi si parla del calcio, si parla della morte di un poeta amatissimo, quindi poco di questo, ma io direi che, cioè, cosa posso dire, che è positivo, perché certo promuove la democrazia e così si ricollega al concetto della democrazia nordica settentrionale, cioè a questa lunga tradizione che abbiamo noi, e in un paese non densamente popolato come la Finlandia, perché siamo 5 milioni su una superficie che è leggermente più grande rispetto all'Italia. Quindi in Lapponia, per esempio, ci sono più renne che uomini, è importante avere questo collegamento con il mondo esterno, servizi vicino, eccetera. Però naturalmente, e poi incoraggia, cioè ciascuno ha il diritto dell'accesso all'informazione. Sicuramente problemi, no? Esatto, problemi di sicurezza, come tutelare la privacy, eccetera, ma noi tutti europei ormai siamo coscienti di questo. questi problemi. Certo, leggevo che il 96% della popolazione sarebbe già online, nel senso che sì. Ormai l'intera popolazione ha veramente dimestichezza con la rete. Sì, e, sì, molta dimestichezza, sì. E quindi sì, una nuova socializzazione anche fatta attraverso... Anche sì. Sì, sembra che i finlandesi oggi fanno tutto in rete, cioè che il mondo loro si sta concentrando sempre di più in quella direzione, e purtroppo comporta anche alcuni fenomeni negativi questo fatto, perché mi sembra che il finlandese tipico che ha qualche difficoltà nell'esprimersi, no? Mm-hmm. In internet, sui blog, su Facebook, ha il diritto, così dire, di sfogarsi e dire delle cose più brutte degli altri, criticare ferocemente gli altri, attaccare, massacrare le altre persone, mentre poi face to face non ha questo coraggio di esprimersi. Quindi purtroppo può anche in qualche modo sviluppare in peggio il finlandese. Cioè, io preferirei sempre che questo popolo imparasse a comunicare come comunicate voi italiani, in modo più franco, diretto, avere più rispetto e interesse verso il prossimo, avere quest'umanità tipica di voi italiani, almeno ancora. Non si sa, perché mi sembra che l'Europa stia diventando unica, nel senso che impariamo i lati qualità peggiori dagli altri. No. Al posto di... noi cerchiamo di trasmettere anche i lati positivi, anche se quando ti abbiamo chiamata per chiederti di parlare di questa cosa, la prima cosa che ci hai detto è stata: vabbè, ma così i maschi finlandesi diventano tutti obesi e passano troppo tempo davanti al computer? Sì, e poi davanti ai boccali di birra, no? Quindi diciamo che la piaga, secondo me, la piaga nazionale, quella più grossa, è l'alcolismo. Ma oggi anche le donne bevono, purtroppo, e quindi molti figli vengono trascurati. E poi appunto c'è molta emarginazione. Una volta sei alcolizzato, perdi il lavoro, o prima perdi il lavoro, poi sei alcolizzato, poi passi il tempo davanti al computer, in questa realtà virtuale in cui puoi anche inventarti un personaggio più affascinante, più brillante, più interessante di quello che sei in realtà. Sì, ma quello lo fanno anche in Italia. Io so che negli ambienti dei diplomatici, nei salotti per bene, non si parla spesso di questo rovescio della medaglia, di questo paese apparentemente benestante, dove comunque c'è molto malessere, e i maschi nostri soprattutto sembrano star male. E non mi riferisco solo ai suicidi che sono frequenti, ma proprio comunque, soprattutto tra i giovani. No, ma infatti a tassi alti di depressione anche. Grazie davvero, Lena. E insomma, noi aspettiamo di leggere Ammaniti in Finico, intanto, che ci piace come cosa, anche solo il pensiero. Magari ci si risente in una delle prossime puntate, ok? Va benissimo, sì, io sono sempre disposta a parlare della Finlandia, di queste differenze culturali tra i due paesi. E poi in ogni caso io dico a voi, a tutti voi italiani, benvenuti in Finlandia, soprattutto in estate. La mia città Helsinki è bella, è animata, è verde, viviamo in mezzo al verde, pedaliamo come faccio io, vado in bicicletta tutto l'anno, quindi ci sono anche tanti lati positivi. È uno spot bellissimo. Grazie davvero, ciao e buon sabato. Ciao Elena. Nesku linga stau ir tu daugiau ne mano Galinė be pareiti šanak tina mus Dar stiloja klavišai, vieni šau piano Aš ir tu, nieko nebeliko Aš ir tu, taip jo atsitiko Questa canzone si intitola Amore Ciao, è in lituano, ma forse avete sentito qualche sfumatura pugliese. Lui si chiama Andrea Zappa, è un cantante pugliese, emigrato in Lituania, sta avendo in questi anni un successo clamoroso. Ciao Andrea, benvenuto. Andrea? Pronto Andrea? Ecco, oggi con le linee stiamo giochicchiando e volevamo presentarvi Andrea, ma c'è pochissimo tempo. Volevamo infatti dirgli che insomma l'appuntamento con lui e con la sua storia, che è assolutamente bella e divertente, sarà per sabato prossimo. È il momento dei saluti, un grazie ad Alba Chiara Rondelli che con me ha scritto il programma, ad Anita Panizza in redazione, a Peter Bescapè alla parte tecnica. Vi ricordo che le puntate sono scaricabili e riascoltabili in podcast dal sito radio24.it. Voi potete scriverci l'altraeuropa@radio24.it. Ora al GR, poi Davide Paolini. Oggi si parla di gelati, il clima è quello giusto. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ciao!